Capitolo 128. La sesta fatica. Gli uccelli stinfali. Sesta fatica di Eracle fu di cacciare gli innumerevoli uccelli dai becchi di bronzo, dagli artigli di bronzo, dalle ali di bronzo, divoratori di uomini e sacri ad Are, che spaventati dai lupi del burrone dei lupi, lungo la strada di Orcomeno, avevano invaso la palude stinfalia. Colà essi vivevano lungo le rive del fiume dallo stesso nome, e di quando in quando si alzavano nell'aria simili a oscura nube, uccidevano uomini e animali lasciando cadere una pioggia di piume di bronzo e al tempo stesso defecando un escremento velenoso che bruciava le messi. Giunto alla palude, che era circondata da fitte selve, Eracle si accorse che non poteva cacciare gli uccelli con le sue frecce perché erano troppo numerosi. Inoltre la palude non pareva né abbastanza bassa perché un uomo vi si potesse addentrare a piedi, né abbastanza profonda per permettere l'uso di una barca. Mentre Eracle indugiava incerto sulla riva, Atena gli diede un paio di nacchere di bronzo fabbricate da Efesto, o forse si trattava di un sonaglio. Salito su uno sperone roccioso del monte Cillene, che sovrasta la palude, Eracle batté l'una contro l'altra le nacchere oppure scosse il sonaglio con tale clangore che gli uccelli si alzarono subito in volo, pazzi di terrore. Eracle li uccise a dozzine mentre volavano verso le isole di Are nel Mar Nero, dove più tardi furono trovati dagli argonauti. Taluni dicono che Eracle era con gli argonauti a quell'epoca e uccise molti altri uccelli. Gli uccelli stinfali sono grandi pressappoco come gru e assomigliano molto agli ibis, ma i loro becchi dritti possono forare una corazza di metallo. Vivono anche nel deserto arabico e laggiù li considerano ancor più pericolosi dei leoni e dei leopardi, perché si abbattono sui petti dei viaggiatori e li trafiggono. I cacciatori arabi hanno imparato a indossare speciali corazze di corteccia intrecciata, dove i becchi esiziali di tali uccelli si impigliano e l'uomo aggredito può così stringerli per il collo. È probabile che uno stormo volasse dall'Arabia alla palude stinfalia e l'intera specie ne prendesse il nome. Secondo altre versioni, i cosiddetti uccelli stinfali erano donne, figlie di Stinfalo e di Ornite, che Eracle uccise perché gli rifiutarono l'ospitalità. A Stinfalo, nell'antico tempio di Artemide Stinfalia, simulacri di questi uccelli sono appesi al soffitto e dietro l'edificio si trovano statue di fanciulle con gambe di uccello. Colà Temeno, un figlio di Pelasgo, fondò 3 templi in onore di Era. Nel primo essa era onorata come fanciulla perché Temeno l'aveva allevata, nel secondo come sposa perché si era unita a Zeus, nel terzo come vedova perché aveva ripudiato Zeus ritirandosi a Stinfalo. Benché Atena continui ad aiutare Eracle, questa fatica non appartiene alla serie delle prove che precedono le nozze, ma glorifica Eracle come il risanatore che scaccia i demoni delle febbri, identificati con uccelli di palude. Gli uccelli che si vedono sulle monete di Stinfalo sono spatole, cugine delle gru che le incisioni medievali inglesi ci mostrano intente a succhiare il respiro dei malati. Si tratta in verità di sirene dalle gambe di uccello, personificazioni della febbre, e nacchere o sonagli erano usati nei tempi antichi, e lo sono ancora presso i popoli primitivi, per scacciare i demoni della febbre. Artemide era la dea che aveva la facoltà di suscitare o curare tali febbri con le sue frecce misericordiose. La palude stinfalia copriva un'area assai più vasta quando il canale che ne faceva defluire le acque si ostruiva, come accadde ai tempi di Pausania, e Ificrato, mentre assediava la città, avrebbe ostruito di proposito quel canale se un segno del cielo non gliel'avesse impedito. Può darsi che in un'altra versione della leggenda Eracle prosciugasse la palude liberando il canale, come aveva già fatto per la pianura di Tempe. Pare tuttavia che il mito abbia un significato storico oltre che rituale. Un collegio di sacerdotesse arcadi che onoravano la triplice dea come fanciulla, sposa e vegliarda si rifugiò forse a Stinfalo dopo essere stato scacciato dal burrone dei lupi da invasori che onoravano Zeus Lupo. E Mnasea ha plausibilmente interpretato il massacro o l'espulsione degli uccelli stinfali come la soppressione di questo collegio di streghe effettuata da Eracle, vale a dire da una tribù di Achei. Il nome stinfalo allude a pratiche erotiche. Gli uccelli arabi dal potente becco, di cui parla Pausania, erano probabilmente i demoni del colpo di sole che si tenevano lontani con schermi di corteccia e vennero poi confusi con gli struzzi che gli arabi cacciano ancora oggi. Leuc Herodes, airone bianco, è il nome greco della spatola. Si dice che un antenato di Erode il Grande fosse stato schiavo nel tempio di Eracle Tirio, il che spiega il nome di famiglia. La spatola è molto simile all'ibis, un altro uccello di palude, sacro al dio Thoth, inventore della scrittura. E l'Eracle Tirio, come il suo parallelo celtico, era protettore della cultura che rese Tiro famosa. Nella tradizione ebraica, il sacerdote Hiram di Tiro fa una gara di indovinelli con Salomone.